partito l'aspiratore, ho anche un po'. Il programma contiene linguaggio offensivo. Ogni riferimento a cose, persone ed avvenimenti è puramente casuale. Gaucho. Volevo salutare Roccia. Gaucho. Per l'ultimo pezzo che è divertentissimo, diciamo. Vabbè, c'è. Cosa? Certe donne magari non l'apprezzano, però. No, ma non è riferito alle ragazze, no, è una storiellina. Sì, niente di personale. Cavalli. Ma niente di personale con chi sta ascoltando, ovviamente. Tutti tranne chi sta ascoltando. Eccoci. Prego, qua, Claudia, siamo al completo. Claudia è arrivata, non stava ascoltando. No, infatti, siamo al completo. Non male di me. Ma sai che ho visto la tua foto su internet, Graziano, sei bellissimo. Immagino. C'è Graziano con la cuffia, perché ovviamente un disc jockey deve avere la cuffia. Che ha portato Caramella. Il Roccio sembra uno del ghetto. Ecco, per chi guarda le foto su internet, se notate, c'è una similitudine tra la mia foto e quella di Roccia. La sera prima eravamo insieme. Ah, infatti, e si nota, devo dire, moltissimo. Cioè, bellissimi. Eravamo bellissimi. Bellissimi, sì. Quell'aria vissuta da disc jockey, come si suol dire, bella pesante. Vabbè, lasciamo stare. Invece la foto di Gaucho ancora non c'è, la stiamo cercando perché non riusciamo a impressionare la macchina, vabbè, solite cose. Però vabbè, non c'è ancora la foto, arriverà. Volete sapere subito il nostro indirizzo immediatamente, perché queste cose possono incuriosire, per andarle a vedere? http://www.radiorockfm.com. Questo è il nostro nuovo indirizzo, radiorockfm.com. Buon pomeriggio, benvenuti al Gaucho Show. Sono le 15:08 minuti primi e oggi è un'altra giornata con la pioggia. Ma niente, non ci interessa. Facciamo evaporare anche l'acqua che viene giù dal cielo con la nostra musica. E si va! Volume si alza, avete a disposizione 10 tacche sul vostro amplificatore, lo diciamo da 3 anni, c'è chi inizia a dirlo da 2 mesi. Dopo faremo un gioco. Dopo lo facciamo. Però possono vincere solo qui da Genova. Utilizzate la decima tacca. Genova non ci sento. Appunto. Sì, ma le mezze tacche dove le metti? Mezze tacche le lasciamo da altri, va. Allora salutiamo Genova? Vabbè, dai. Li salutiamo proprio. Ok. Ciao Belì! Ciao, grazie di essere stati con noi. Ciao. Morale. Su, beh, su. Oppure, noi vi ascoltiamo. Esatto. Telefonate, fate 02-670-9132 e dite: no, sono un ascoltatore di ascolto. Non ascolto Gaucho perché Gaucho è uno. Ma Gaucho, ma perché lo mandate in onda? Però il resto lo ascolto. E ciò ci fa piacere. Salve, sono Gaucho Sbond. Si diceva. Ecco, non è il nostro caso. Non è il nostro caso, no. Case separate, vite separate. Manda. Io rispondo, risposta. Salve. Se uno corre sotto la pioggia, sì, si bagna di meno che andar piano? Allora, qua c'è uno studio che mi è appena arrivato dal Canada, dove il problema della pioggia è già stato risolto. Cioè? Non si esce di casa. Ah, ok, va bene. Mi sembra una strada. Si sta tutti in casa, si ferma il mercato e si risparmia. Ok, vabbè. Giustissimo. Allora, non, questo studio qua dice: state in casa e non vi bagnate. Il signor Borba. Il contratto del signor Borba. Contratto strappato dal direttore artistico Garavelli. Direttore artistico Garavelli. Infatti, sono emozionato. A posto, la ringrazio tantissimo del suo intervento. Ci fa piacere che lei era qua, cioè dopo tanto. Sì. Che non so. A me non tanto, devo dire. Perché so. Siete cambiati. In che senso? Perché adesso che lui ha i capelli arancioni. Mi trovo abbronzati. Lei una volta non aveva quella ferraglia sul naso. Che ferraglia è? Non lo so cos'è, il piercing, si è fatto. Mi sembra, ma non sì, è, sì, è vero, però è vero. Farsi tutto quel ferro. Ma è difficile. Non può più andare in aeroporto. Non può andare in aeroporto. Negli aeroporti è una cosa pazzesca. No, ma c'è il segreto. Quale? È meglio non dirlo. Perché no? È meglio di no. Si può dire se vuole. Ecco, perché non lo so. Faccio finta che lo sappia. Va bene. Non esiste un segreto. Allora, annunci lei la nostra pubblicità, perché noi annunciamo i nostri sostenitori. Se mi fa ballare un 1.000 lire, sì. Si gira. Va bene, anche 1.500. Allora, devo fare? Annunci la pubblicità delle 15:10. Pubblicità, allora, poi? Pubblicità delle 15:10 ci sarà Mariposa. Sì. Slam, Nestlé, E poi il Rock FM 2 Fire. Fire. Ah, Fire come fuoco. È esatto. Il jingle finale. Il jingle finale, e poi dopo ci sarà ancora basta. Musica per voi fino esatto. alle 15.30. Esatto. E Max Moon Power. Vedo che lei è entrata nel mondo giusto. No, no, non c'entra niente, è un'altra radio quella. Salve, signor Bor. Lì viene bene, viene preciso, preciso. Perché erano precisino, cioè tutte i suoi dischetti al suo posto, le sue cosine al suo posto, vabbè. Voglio ricordarvi che venerdì sera, venerdì sera, venerdì sera, vi aspetto al Medigas di Osnago. Oh! Al Medigas di Osnago, venerdì sera, c'è Gaucho. A Osnago, chi se ne frega. Metal Quaglia, ciao, come va? Va bene, tutto ok, tutto ok. Il nostro amico che diceva, insomma, mettiamo qualcosa di metallo. Mettiamo un metallo, grazie, mettiamo qualcosa di metallo, più pesante. Va bene, no, questo è il Chemical Gaucho di quest'anno, spazia in tutti i settori del rock. Cos'è che stai facendo? Metallo. Metallo, ma dai. E così, quest'anno, essendo l'ultimo anno, quindi di conseguenza andiamo a prendere tutto lo spettro, tiriamo fuori lo spettro dall'armadio e lo proponiamo alla radio. Infatti questo programma fa terrore, fa paura, programma da paura. Siamo arrivati all'appuntamento con il Rock Shock di quest'oggi. Per quanto riguarda il Gaucho Show, non è Vi e Romani piace la biga, non è la Ninetta, ma abbiamo cambiato, e la versione demo fatta qualche anno fa in Italia di due o una serie di Clawfinger, sapete quella dei bambino? Questa qui, e questa è la versione demo che abbiamo trovato io e Graziano, versione in italiano, quindi si capisce cosa dicono, e soprattutto è un problema che hanno tutti i giovani con i genitori, insomma, che non li fanno uscire, ma non vi dico nient'altro, ve lo faccio soltanto sentire. Dopo naturalmente il Rock Shock di questa settimana ci sarà la pubblicità e poi Giusy Starant. Diciamo il titolo? Diciamo il titolo, Sono dai. Cattiva. Sono cattiva, vabbè. Ecco, allora, la cantante di Sono Cattiva e il batterista, se si riconoscono, possono chiamarci. Possono chiamarci, diamo il numero, lo 02-670-9132, ripeto, 02-670-9132. Abbiamo deciso di rimettere in onda questo disco perché è carinissimo. Vai, Rock Shock. Mamma, mi dai le chiavi che devo andare? Ecco, sei appena ritornata a casa, esci di già. Ma io non lo capisco, non hai un po' di pensiero per i vostri genitori? Devo fare tutto io, la casa che la manda avanti. Sempre in giro, in mezzo alla strada, suonare il tamburo, la chitarra. Hai solo 15 anni, non lo so. Cerca di capire un po' questi poveri genitori, che sono sempre qua a servirti. Dobbiamo provare. No, insomma, non è possibile, non è. Ho detto di no e no, basta, eh. Ma dai, mamma, non rompere. Questa qua è la situazione attuale, che devo dire è più reale di così non ce n'è. Cioè, io sono sconcertato. Sì, anch'io, scusami un attimo, mi riprendo. Adesso tutti i quindicenni si riconosceranno in questa situazione. Pensate che questo disco è stato fatto 15 anni fa o 20 anni fa. Eh già, i vostri genitori, che adesso sono i vostri genitori, 15 anni fa, 20 anni fa, ai loro genitori dicono le stesse cose. Non è che i genitori adesso sono sempre stati così. 15-20 anni fa, dai mamma, dammi le chiavi della macchina, dai che stasera c'ho una ragazza, dai, cosa faccio? Vado lì col motorino, un po' piove, dai, dai papi, fammi fare, dai, per favore, ma insomma non mi capite mai. Comunque. Ok, comunque. Volevo sottolineare che alla voce. Alla voce, la cantante. La cantante. Jay. Si chiama il Jay. Batterista R. R. Se R o J si riconoscono, ci farebbe piacere sentirli. Telefonateci se avete voglia. Vi lascio con la pubblicità, ve l'annuncio, lo start pubblicità di Rock FM, poi c'è Fridge Compilation, poi c'è Zero Più e il promo dei Disgiochi di Rock FM, dove potete trovarli, dove potete andare a trovare le varie serate che i Disgiochi di Rock FM hanno in giro per l'Italia, soprattutto per la zona di Milano. Bene, dopodiché ci sarà anche Giusy